Il punto di Stefano Folli. Curiose coincidenze, il nuovo premier francese Valls ha esordito promettendo che andrà in fretta, molto in fretta, perché politica vuol dire scegliere. A parte il fatto che Valls è apparso assai più generoso con il suo predecessore di quanto non sia stato Renzi con Enrico Letta, per il resto ci sono molte assonanze tra Parigi e Roma. Stessa voglia di trasmettere un'immagine corsara della politica, stesse promesse, stessa paura dello tsunami in arrivo. Da noi lo spauracchio è il fallimento del sistema e la vittoria del movimento di Grillo. In Francia è il trionfo possibile, persino probabile, della destra di Marine Le Pen. Vedremo cosa accadrà adesso nelle due capitali. Il tempo per rimediare agli errori del passato è poco e gli annunci non bastano a rassicurare l'opinione pubblica. Certo, se Francia e Italia facessero davvero fronte comune in Europa, qualcosa potrebbe cambiare. Tuttavia questa è ancora fantapolitica, mentre la realtà è l'inglese Cameron che cerca di stringere alleanze con Renzi, ma Londra è fuori dall'euro e ciò rende tutto più insidioso.